Buongiorno a voi, supermuscoli. La caccia ai guerrieri è finita. Quei ragazzi non avevano commesso il fattaccio su nel Bronx. Hanno dovuto combattere e difendersi tutta la notte solo per salvare la pelle. Beh, ci dispiace davvero. Non ci resta altro da fare che metter su una bella canzone. Volevo fare